Torniamo a sentire Elena Guerrini per Festival a Veglia a Teatro Col Baratto in quel di Manciano. Elena, ben ritrovata. Ciao, eccoci. Eccoci, ci siamo. Partenza. Ci siamo. Preparate la sedia e l'olio, il vino. Allora, per chi ci ascolta, chiaramente ricordiamolo sempre, la caratteristica fondante e che lo rende anche abbastanza singolare di questo festival. Beh, sì, ci si porta la sedia da casa, come faceva mio nonno, che con la seggiolina usciva una bottiglia in mano e diceva: dove vai, nonno? E lui diceva: vado a Veglia. E che fai a Veglia? Ascolto le storie. Eh certo. E si parte domani e quindi chi viene si porta da casa la seggiolina pieghevole e una bottiglia d'olio, una bottiglia di vino o del formaggio, che questo dono sarà l'incasso per l'artista. Allora, a partire da domani fino a? Fino al 16 di settembre. Ok. Ogni sera un evento, una presentazione di un libro. Quest'anno ci saranno ben 4 presentazioni di libri. Allora. Inizieremo con il libro di Saverio Tommasi il 15, poi con il libro intitolato Siate ribelli, praticate gentilezza, perché quest'anno il tema è la rivoluzione gentile, appunto. Poi ci sarà la presentazione del libro di Oliviero Ponte di Pino sul Dioniso della Nuvola, Oliviero Ponte di Pino e Giulio Alonso, e poi ci sarà la ripresentazione del libro di Letizia Bernazza, Frontiere di Teatro Civile. E dimenticavo, il 14, quindi il giovedì, ci sarà la presentazione di un libro di Giovanni Marcioni intitolato Dal denaro al donare, l'anagramma del cambiamento. Quindi anche presentazioni di libri tematiche. E dal punto di vista invece dei concerti, iniziamo domani con Gustavo Richter al Podere il Civilesco a Sant'Andrea, poi Agnese Valle, che è questa cantautrice giovanissima romana molto molto brava, con Allenamento al buon umore a Podere di Montemerano, vicino a Franchino Garage, giovedì sera lo spettacolo della comica, dopo la presentazione del libro di Saverio Tommasi, Siate ribelli, praticate gentilezza, ci sarà alle 21 a Montemerano, all'antica latteria della Dalgisa, è un vecchio negozio che viene riutilizzato come teatro, Bad Girl sfrontata all'occorrenza, e concluderò io sabato con uno studio del mio lavoro, Vie delle Donne, perché ci sono poche vie dedicate alle donne. Benissimo. Senti, gli orari, da che ora si comincia, visto che sarà tutti i giorni fino al 16? Ma più o meno domani alle 19:30, gli altri giorni alle 18. Perfetto. Quindi poi c'è la possibilità di stare appunto a cena nei nostri bei luoghi e vedere una presentazione del libro il pomeriggio e lo spettacolo la sera. A questo punto ci dai tutti i riferimenti web per il programma, i luoghi e gli orari? A Veglia Teatro Baratto, blogspot.com, il nostro blog, Festival a Veglia Teatro Col Baratto, la pagina Facebook, e chi vuole anche il numero di telefono per le informazioni, 339-8512-693. Un appello, ci sarà un convegno sabato sul teatro fatto in casa, sulle varie forme dei teatri da appartamento, e quindi chi vuol partecipare al convegno può scrivermi. Il convegno si svolgerà alla Biblioteca dei Poderi di Montemerano dalle 11 del mattino alle 18 del pomeriggio. Chi vuol partecipare a questo convegno facendo un intervento o anche portando una torta, visto che si tratta di teatro casalingo, quello che vuole, alla mail spettacoli Elena Guerrini @gmail.com. Benissimo. Può mandarmi adesioni per il convegno sulla pagina Facebook. Oh, e come ci siamo detti stamane, ci sarò io anch'io sabato a conversare con Letizia Bernazza. È un modo anche per rivederci e per vedere poi il tuo nuovo lavoro, lo studio del tuo nuovo lavoro sabato sera. Speriamo anche di registrarlo per poi ospitarlo qui a Radio Teatro. Sì, assolutamente, perché sono affezionata a voi, siete stati i primi a ospitare i miei lavori in Radio Teatro e anche i primi a vedere, a seguire il festival. Per cui sarà proprio una condivisione di materiali per una narrazione. All'interno di questa condivisione di materiali parlerete del libro Frontiere di Teatro Civile, ma anche di altre cose, insomma sarete come nel mio salotto. Benissimo, allora ricordiamolo, Festival a Veglia, Teatro col Baratto, da domani fino al 16 di settembre. Ci vediamo nel fine settimana, Elena. Assolutamente sì, e scrivete per intervenire, vi vogliamo con sedia e vino. Un abbraccio, ciao. Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao.